Gli speciali di Radio 24. Allora, riprendiamo la diretta nella versione speciale. Accanto a me la collega Maria Luisa Pezzali. Buonasera Maria Luisa. Buonasera Sebastiano, agli ascoltatori. Che sta seguendo anche per il Giro 24 l'aggiornamento. E la collega Rosana Magnano, che oggi ha compiuto un giro a Milano, nelle zone dove si poteva accedere per capire l'elemento panico. Buonasera anche a te Rosana. Buonasera. Allora, sentiamo la Protezione Civile Borrelli, che ha appena detto 222 casi di contagio accertati, 6 morti. Argomento. Giuliano Rosciarelli di Alanews. I ritardi dell'approdo del decreto in aula possono creare problemi nella operatività della Protezione Civile o sono due cose completamente distinte? Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quindi è efficace e non è un problema, come dire, la sua trasmissione all'aula del parlamentare di riferimento. Sarà trasmesso, credo che sia trasmesso, sia stato già trasmesso. Noi stiamo operando sulla base di un decreto legge. Come sapete, il decreto legge è efficace dal momento in cui è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e sulla base del decreto legge sono stati poi formati gli atti successivi e sono stati messi in campo tutti i dispositivi anche di sicurezza che si sono completati e si stanno andando a completare in queste ore. Le ultime. Allora, così Borrelli, Maria Luisa Pezzali, appunto la Protezione Civile diceva 222 contagiati ad ora in tutta Italia, chiaramente, 6 morti. Abbiamo visto l'ultimo, purtroppo, un signore di 80 anni, anche qui massimo rispetto e cordoglio, anzi, nei confronti di tutti i parenti delle vittime, però quello che tutti stiamo osservando con estrema attenzione che si trattava di pazienti già critici. Il soggetto in questione era entrato in ospedale dove è stato contagiato, da quello che si capisce, per un infarto. La situazione è comunque la cronaca, Maria Luisa. Sì, è assolutamente il caso di sottolinearlo. Tutte le 6 vittime sono persone anziane con patologie pregresse, tanto che sarebbe più opportuno dire non vittime da coronavirus ma con il coronavirus, nel senso che per nessuno di loro c'è la certezza che sia stato il virus nato in Cina ad ucciderli. Erano, cioè, tutte le complicanze persone polmonari, esatto. Diciamo, non abbiamo certezza che sia stato quello a causare il decesso, certo. Resta il fatto di questo alto numero di contagi, 222 contagiati, il numero che ha dato proprio in questi minuti il capo della Protezione Civile Borrelli, che ci pongono al terzo posto nel mondo dopo la Cina, la Corea del Sud, per il numero dei contagi. Però gli esperti lo stanno ripetendo, questo aumento così esponenziale non vuol dire che l'epidemia si sta espandendo in questi giorni, ma si tratta molto probabilmente di casi già presenti sul territorio, gli esperti dicono da almeno una decina di giorni, che ora vengono scoperti perché si stanno eseguendo i tamponi, i test diagnostici, certo, a tappeto. Del resto lo ricordava anche ieri la virologa Ilaria Capua ai nostri microfoni, la rete del Sistema Sanitario Nazionale Italiano è efficiente, ma è efficiente anche la rete di laboratori, per cui questi campioni vengono poi inviati e si hanno le risposte in tempo rapido. Quindi insomma c'è anche un tema di diagnosi in questo momento, non solo di espansione del virus. Pochi minuti fa anche il punto stampa del governatore della Lombardia Attilio Fontana e dell'assessore regionale al welfare Gallera. Inizierei dai due appelli che sono stati lanciati come informazione di servizio. Fontana ha ribadito: in Lombardia chi vuole avere informazioni sul coronavirus non deve telefonare al 112, bensì al numero verde istituito appositamente dalla Regione Lombardia, lo ricordiamo, 800 89 45 45, così da non intasare il 112, che è il numero per gli interventi invece, per chi ha effettivamente bisogno. E poi l'altro appello dell'assessore Gallera: attenzione, ci sono in giro gli sciacalli, persone che si fingono volontari della Croce Rossa, che vanno a casa delle persone e dicono siamo qui per effettuare il test, il tampone, entrano nelle abitazioni ovviamente con cattive intenzioni. Questo è un richiamo. Ma io gli farei fare, una volta beccati, l'operatore sanitario negli 11 comuni, sì, proprio, senza protezione. Senza protezione, ovviamente, ma ci mancherebbe. mica gli pago la mascherina. Comunque sentiamo allora sia Fontana che Gallera. Sentiamo l'assessore Gallera sulle misure sui pub e i ristoranti attive. I gestori degli esercizi commerciali che prevedono al proprio interno più attività, ad esempio hotel con bar, ristoranti con bar, locali da ballo con ristorante, devono seguire le regole previste per le singole attività commerciali, ovvero bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico, sono chiusi tutti i giorni dalle 18 alle 6. È fatta eccezione per i bar all'interno dell'hotel che restano comunque aperti per garantire il servizio ai soli ospiti della struttura, e altresì i bar dei ristoranti restano attivi per il solo servizio di supporto alla ristorazione, quindi quei bar, quei ristoranti che hanno il bar solo per servire coloro che frequentano, che vanno lì a mangiare. I ristoranti sono aperti, qualcuno ancora ce lo chiede, sono aperti. Quindi, se ho ben capito, ristoranti aperti, bar degli alberghi con i loro clienti aperti, tutti gli altri invece dalle 18 alle 6 di mattina chiusi. Sì, perché il tema è l'assembramento, quindi la concentrazione di tante persone in questi locali, cosa che non si verifica per i ristoranti, invece sì per i locali da aperitivo, after hour, eccetera, insomma. Quindi questa è la logica delle misure che sono state prese. Allora, questo per quello che riguarda la cronaca, diciamo, della gestione da Protezione Civile. Maria Luisa Pezzali, prima poi di arrivare invece anche a Rosana Magnano, dove andremo sulla psicanalisi, preciso che io non ho dato degli imbecilli a chi è stato preso dal panico, lo dico uno ascoltatore. Ho detto che il comportamento di caricarsi di casse d'acqua e di latte che ho visto fare con i miei occhi è un comportamento del tutto irrazionale, perché non hanno bombardato l'acquedotto di Milano né la centrale del latte di Milano, da ragazzi, per favore. Poi vi ritrovate col latte che va male, ti tocca berlo, ti viene pure la diarrea, state attenti col latte. Allora, vai Maria Luisa invece sul il fronte, il resto del fronte, diciamo. Sì, tra l'altro, per collegarmi a quello che dicevi, è stato ribadito da Fontana, dal sindaco di Milano Sala, non c'è nessun motivo per fare scorta, gli approvvigionamenti non verranno a mancare, i depositi sono efficienti, anzi non andiamo a sovraccaricare il sistema di consegne dall'online, perché in questo momento è in sofferenza sulle richieste che arrivano, lasciamolo per chi ne ha effettivamente bisogno. Altri elementi di cronaca prima di passare, poi lo far ascoltare anche la Confesercenti e arrivare invece al tema, diciamo, panico. Ci sono le precisazioni di qualche ora fa dell'OMS, che ha espresso sì profonda preoccupazione per l'improvviso aumento dei casi in Italia, Iran e Corea del Sud, però ha precisato: non possiamo ancora parlare di pandemia, solo di epidemia. Ci prepariamo anche per questa eventualità, ma al momento non siamo in questa eventualità. Tra l'altro si ritiene che il virus in Cina abbia raggiunto il picco e stia cominciando a diminuire. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha precisato che al momento al di fuori della Cina ci sono 2.074 casi in 28 paesi, 23 le vittime. Domani in Italia ci sarà un incontro importante con esponenti dell'OMS per fare il punto della situazione e soprattutto per coordinare anche gli interventi al di fuori del nostro paese. Allora, adesso arriviamo, prima abbiamo avuto ospite sia un imprenditore della zona interessata vicino a Codogno, che ci ha raccontato come ha fatto a lavorare a Castiglione d'Adda, una degli 11 comuni nella zona rossa, sia la presidente dell'agenzia di viaggio, che raccontava anche qui a livello di razionalità di cancellazione di voli di italiani sull'Australia ad agosto o di italiani in Sicilia o in Puglia a luglio, che mi sembra veramente che qui sia un comportamento solo irrazionale. Però che non vi sia nessun problema sulle scorte, ma non solo nell'Odigiano, nel Piacentino, ma anche fuori, a maggior ragione, dalle zone rosse, lo ha comunicato anche il segretario generale della Confesercenti, Mario Bussoni, che poi però ha sottolineato anche che invece il vero problema sono le forti perdite di fatturato. Domani vi sarà un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico proprio con le imprese. Sentiamo Bussoni al microfono della nostra Anna Marino. Problemi di scorte non ce ne sono e non ce ne saranno, non prevediamo che ce ne siano, né nelle zone, diciamo così, cosiddette rosse, né per quanto riguarda le altre zone nelle quali comunque ci sono situazioni emergenziali in corso. Dal punto di vista invece delle richieste al governo, domani l'incontro, una soluzione ombrello per questo periodo? Noi siamo stati, credo, fra i primi a chiedere al ministro l'istituzione di un tavolo speciale nelle regioni, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, eccetera. Ci stanno dicendo i nostri soci: guardate che qui il rischio è che si blocchi tutto, non è solo un problema delle zone rosse e delle zone colpite, il problema è che si blocca un'intera economia. Ad esempio spostare gli eventuali pagamenti, imposte, contributi e quant'altro, ma anche sostenere l'eventuale inattività. Allora, prima di andare sul traffico e poi sentire che cosa ha visto oggi la nostra Rossana Magnano in giro per Milano, Maria Luisa, ci sono altre dichiarazioni di Borrelli, Protezione Civile? Sì, c'è ancora la conferma del fatto che non ci siano legami certi tra i due focolai già individuati. Cioè Padova e Vo e diciamo... gli 11 comuni dell'Lodigiano, esatto, perché nel pomeriggio è circolata una voce su un legame, questo agricoltore che avrebbe potuto costituire il legame e quindi ricondurre tutto ad un unico focolaio. Non ci sono conferme, Borrelli lo ha ribadito anche poco fa, sentiamolo. Confermo che non ci sono altri focolai. E avete trovato il legame fra i focolai? Il legame tra i focolai io ancora non ho avuto conferma di questo legame. Quando li avremo ve lo daremo, ho letto anche io questa mattina di notizie di stampa, ma non ho avuto conferma su questo dato. Allora, sulla questione dei tamponi sono state segnalate delle esigenze di ulteriore approvvigionamento, ma non mi pare che ci siano puntuali difficoltà, così come si sta procedendo all'approvvigionamento di materiale sanitario, di materiale mascherine e quant'altro. Per quanto riguarda il terremoto, confermo che abbiamo registrato una scossa di magnitudo 4.4, poi definitiva in Calabria, una scossa che non ha avuto conseguenze, non ha avuto danni per fortuna e quindi non abbiamo avuto alcuna conseguenza. Almeno per ora non ci sono state segnalate criticità di alcun tipo. Per quanto riguarda la concomitanza, si tratta noi di eventi che dobbiamo gestire e quindi avremmo gestito anche le due cose. Io mi auguro che non diventi una pandemia, non è diventata una pandemia per i dati che abbiamo registrato nel resto del mondo e quindi credo proprio che questi valori che abbiamo registrato nel nostro paese siano contenuti entro i numeri ragionevoli e assolutamente non tali da giustificare il mutamento della tipologia di epidemia in pandemia. Allora, nel ringraziare Maria Luisa Pezzali, il traffico e poi insomma io spero che dopo quello che è successo nel fine settimana Rosanna Magnano abbia qualche notizia migliore per noi e quindi sui comportamenti da tenere. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Gli speciali di Radio 24. Allora, Rosanna Magnano, riparto da una considerazione di un ascoltatore al 349-238-6666 che dice: mi scusi, io sarò libero di fare la spesa che voglio, ma ci mancherebbe, ma lei può anche caricarsi 20 casse d'acqua. Qualcun altro mi dice: ma sa, l'abbiamo fatto perché per non andare più volte al supermercato. Sì, ho capito, però mi convince fino a un certo punto, perché secondo me, scrivono altri ascoltatori, c'è mezzo paese nel supermercato, forse non è il caso di incontrare mezzo paese se il problema è eliminare o ridurre il più possibile gli assembramenti. Comunque, che situazione hai registrato tu a Milano, visto che oggi, su richiesta, diciamo, della radio, non perché non avevi una mazza da fare, sei andato in giro per supermercati e esatto, centri commerciali, prego. Sì, ho seguito tre linee della metropolitana, mi sono fermata un po' qua e là e sono andata all'Esselunga di Porta Nuova per vedere un po' se continuava l'assalto che si è registrato soprattutto ieri in questi grandi centri nel fine settimana. E devo dire che sicuramente si vedevano le tracce, insomma, dell'assalto, perché c'erano ancora interi scaffali, quello della pasta, pasta, quello degli omogenizzati, quello delle carni, ancora vuoti, però devo dire che la maggior parte delle forniture era tutta a posto e non c'erano grosse code o persone con carrelli pieni, quindi il panico sicuramente è passato. E ascoltando un po' le persone, insomma, si capisce che un po' si dividono metà e metà, insomma, come stato d'animo, ecco. Allora, per quello che riguarda, adesso torniamo qui continuano a mandarmi gli ascoltatori foto di supermercati, Esselunga, piuttosto che, se non voglio fare pubblicità, però anche a Verona, in questo caso da Padova a Verona, mi stanno arrivando foto di scaffali, vabbè, in cui è tutto vuoto. Gli operatori dei centri commerciali e delle metropolitane invece che cosa hai notato nei mezzi di trasporto? Nei mezzi di trasporto c'è, diciamo, oggi faceva veramente molto caldo a Milano, è una giornata praticamente primaverile. Da quello che abbiamo capito dovrebbe essere una cosa positiva per questo virus. Sì, assolutamente. Però, ecco, si vedeva che a parte le mascherine, diciamo così, ovviamente senza nessuna pretesa di scientificità, a occhio, un 20% di persone portavano una qualche protezione, o mascherine, oppure avevano la sciarpa sul naso e la bocca come se nevicasse. Invece oggi faceva veramente caldo. E insomma, quindi ascoltandoli... Parlando con gli operatori della metropolitana, noi abbiamo visto dei cali anche nella frequenza dei passeggeri. Assolutamente sì, perché poi non andando a scuola i ragazzi, certo. Quindi chiaramente una bella fetta di utenti viene tagliata. E poi c'è il tema calcio, perché insomma mi scrive un ascoltatore: mi pare normale che mia figlia, che ha avuto un po' di influenza, debba andare con entrambi i genitori al Sacco di Milano anche se già guarita per fare essere riammessa? Non lo so, non so se mi pare normale, però è chiaro che in questo momento la prudenza è d'obbligo. Anch'io ritengo che vi siano molte incongruenze. Però il calcio, il mondo del calcio, chiaramente il ministro ha fatto sapere che le partite si giocheranno a porte chiuse. Poco prima che uscisse la dichiarazione, ai nostri microfoni, ospiti di tutti i convocati, Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha detto: ma insomma, non è assolutamente un tabù parlare di Juventus-Inter, che è la partita, una delle prime delle partite, a porte chiuse. Credo che in questo momento quella che deve essere la priorità per il sistema paese di cui lo sport fa parte sia la tutela della salute pubblica. È evidente che c'è un dialogo con i vari portatori di interesse, ma quello che deve prevalere e cui noi appoggeremo sempre è qualsiasi determinazione che venga assunta nell'interesse della tutela della salute pubblica. È un calendario che è estremamente intasato, recuperare una partita diventa estremamente complicato. Nel caso specifico, però, ripeto, deve prevalere l'interesse della salute pubblica, e se così disporranno gli enti preposti, questo noi faremo. Allora, altro tema, le farmacie. Io ho aperto il programma chiamando sciacalli, appunto, poi ci siamo tornati, tutti quelli che stanno vendendo a prezzi allucinanti mascherine che costano 3,27 €. A Mucchina, dopo che Angelini ha detto che la produzione è aumentata, il prezzo no, a Mucchina a 650 volte il prezzo. Tu, Rosana, hai fatto un giro anche per le farmacie principali, sì, di Milano. Sì, esatto. E sicuramente c'è un assalto non soltanto ai generi alimentari, ma anche a quegli articoli sanitari che servono per difendersi dal coronavirus. Quindi le mascherine sono andate a ruba e poi tutti i liquidi disinfettanti. E mi ha raccontato un direttore sanitario di farmacia in Piazzale Baracca che ha avuto anche dei problemi di fornitura, perché gli sono arrivate in ritardo, ma le ultime forniture che ha ordinato sono andate via in un'ora di mascherine e liquidi disinfettanti. E non soltanto, sono anche aumentate le richieste di integratori che rinforzano il sistema immunitario. Pure lì, qui siamo nell'esoterismo, però, perché Rosana Magnano è anche una delle nostre esperte di medicina, mi confermi che qui siamo all'esoterismo? Cioè, io me lo prendo volentieri l'integratore, ma serve? Beh, diciamo che serve sempre l'integrato, anche se serve solo adesso. Sì, anche con l'influenza sicuramente aiuta la reazione del corpo, però se il virus arriva fa il suo corso, anche se ti prendi la vitamina C. Direi. Allora, grazie anche a Rosana Magnano, poi noi domani torneremo Torneremo sul punto, vedo che per alcuni ascoltatori il problema è che a questo punto le partite dovrebbero essere date in chiaro, ho capito, e questo è un problema, giustamente, se gli stadi sono chiusi, e quindi vedo che alcuni si preoccupano di altro. Per quello che riguarda le foto, me ne state mandando centinaia di banchi svuotati, speriamo che la cosa rallenti. Grazie intanto anche alla nostra Rosana Magnano, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Ricordo che una parte dell'iniziativa che abbiamo preso assieme all'Associazione Italiana dei Virologi di Virologia, e quindi ogni giorno, questa mattina dalle 10 alle 11, domani dalle 10 e mezza alle 11, ci sarà la risposta dentro il programma di Alessandro Milan di un virologo alle telefonate degli ascoltatori. Parte di queste risposte le riascolterete anche in Effetto Notte con Roberta Giordano. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.